Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. E veniamo a tutto quello che è accaduto oggi in Lega Pro. Abbiamo detto un episodio che non era mai accaduto, insomma, l'abbiamo definito semplicemente vergognoso. Oggi pomeriggio a Salerno, queste sono le immagini. Il calcio si è letteralmente fermato di fronte alla minaccia di una parte dei tifosi verso i suoi stessi giocatori. Siamo a Salerno, il derby tra Salernitana e Nocerina era stato vietato per motivi di ordine pubblico ai tifosi della Nocerina, che per protestare contro la decisione avevano minacciato di morte i giocatori della Nocerina perché si rifiutassero di giocare e facessero sospendere la gara. Quindi la partita è iniziata già con 45 minuti di ritardo ed è subito diventata una sorta di farsa pro forma, una sceneggiata nelle parole anche del comunicato delle Lega Pro, perché dopo appena 50 secondi il vice allenatore della Nocerina Fusco ha effettuato tutte e tre le sostituzioni a disposizione. Nei successivi 15 minuti altri 5 giocatori della Nocerina hanno simulato infortuni, costringendo così l'arbitro Sacchi a fischiare. È notorio per chi mi ascolta da 30 anni che io non mi sia mai occupato di calcio, ma non lo considero un punto a favore, semplicemente perché da piccolo non mi hanno mai regalato un pallone, mi tenevano isolato dagli altri ragazzacci, quindi al massimo ero quello che portava il pallone e lo mettevano a porta, quindi non mi sono mai interessato di calcio. È una lacuna fra le tante, non ascolto musica, ne ho parecchie. Però mi ha colpito questo fatto che è accaduto della partita farsa Salernitana-Nocerina. Mi sono fatto spiegare nell'esattezza di cosa si tratta. Si tratta di due squadre a un derby, una di Nocera inferiore, una di Salerno. Dibattevano questa partita importante. Il prefetto aveva detto: beh, siccome c'è una tifoseria scatenata, fatela senza i tifosi più accesi. Poi questi sono andati negli spogliatoi e hanno detto ai giocatori della loro squadra: no, questa cosa non è giusta, che non ci può essere il fiorfiore della tifoseria, e quindi vi facciamo un culo così se voi oggi giocate. E quelli sono andati in campo, poi mi hanno fatto vedere le scene della partita, sembrava lo spot di Sky, cascavano per terra, recitavano, insomma, hanno fatto in modo che la partita fosse annullata. Certo, non è che hanno fatto una bella figura. Ma visto che non voglio parlare di calcio, anche se voglio entrare più nello specifico, mi interessa di questa notizia, voglio portare il mio pubblico a una riflessione. È l'ultimo residuale ricettacolo in cui la passione si trasforma in azioni forti, in azioni condivise, quello del calcio. Non esiste altro. Sì che poi c'è stata la raccolta dei consensi su Facebook, a Nocera hanno fatto una grande festa, come se fosse stata la più grande figata del mondo, aver fatto fare una figura di cacca ai propri giocatori e passare oggi alla storia per una tifoseria così mafiosamente coatta da poter impedire una partita. E il resto, scusate, da settimane stiamo parlando dello scandalo del baby squillo in tutta Italia, le mamme si lacerano i vestiti, i ben pensanti sbattono la testa sul muro, dove saremo finiti, i preti pregano nelle chiese, ma il famoso elenco degli eccellenti uomini legati al mondo della politica, dell'informazione, dello spettacolo, i padri di famiglia, gli integerrimi signori che frequentavano queste prostitute, dove sono finiti? Non se ne sa niente. Si sa oggi che hanno arrestato un poveretto, il povero Paolini, il disturbatore televisivo, che finalmente, a forza di elemosinare scampoli di luce televisiva altrui, adesso avrà tutta la possibilità di avere le prime pagine dei giornali, i talk show che parleranno di lui. Ma a parte questo, non so, ci sono una migliaia di altri fenomeni di cui vorrei parlare: handicappati maltrattati, vilipesi, ospedali che chiudono, persone che hanno situazioni invivibili, massacri quotidiani, una persona andando contro mano ha fatto morire 5 persone, ancora non c'è un piffero di legge che dica se ammazza una persona con l'automobile come se la prendesse a martellate in testa. Beh, invece no, sul calcio può accadere di tutto. 800 24 00 24. Ma è una vergogna, semplicemente un danno gravissimo al calcio italiano e alla Lega Pro. Hanno spazzato via il positivo che abbiamo realizzato all'ONU con l'iniziativa sulla lotta per i valori contro la contraffazione. Mi auguro che queste immagini che si stanno proiettando consentano alla polizia di assicurare le patrie galere a questi delinquenti. Ecco perché, ricordo ancora, sostanzialmente era un match molto... Questo era il direttore generale della Lega Pro, Francesco Ghirelli, assicurare alle patrie galere questi delinquenti. Ma chi ci crede, figuriamoci, sarà mai possibile. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, io non ci credo. Beh, figurati, credo. Io non capendo nulla di calcio, ma non ci credo nemmeno io. Allora, ricordo Pierluigi Pardo, se ci fosse mai bisogno, che conduce da settembre la fortunatissima trasmissione Tiki Taka, il calcio è il nostro gioco su Italia 1, e poi naturalmente è una nostra voce di Radio 24, il commentatore sportivo a tutti i convocati, che ogni giorno va dalle 14 alle 15.20 su Radio 24. Allora, scusa se entro sommessamente e indegnamente in un'area che non ho mai proprio toccato, che non ci capisco nulla, ma mi sai dare una risposta, al di là di questo fatto che dovresti circoscrivermi un po' meglio rispetto a quanto l'ho fatto in maniera raffazzonata, com'è che c'è questa sorta di totale impunità? Sembra che nel mondo del calcio ammesso ciò che non si è ammesso fare all'indignazione, alla volontà popolare, allo spirito di rivolta di massa in campi molto più importanti, che colgono molto di più le sensibilità comuni. Il problema è esattamente questo, che tutto ciò che ruota attorno, dentro e immediatamente fuori dai campi da calcio spesso diventa veramente un luogo franco, una zona franca dove possono succedere cose che fortunatamente in altri luoghi non succedono. Insomma, nel campo da calcio sono state spesso tollerate come se ci fosse un diverso codice civile, un diverso codice penale, delle diverse leggi, tutta una serie di comportamenti che se li fai a Piazza del Popolo o a Piazza del Duomo ovviamente ti portano rapidamente, almeno si spera, insomma, a delle sanzioni. Beh, io abito dalle parti dello Stadio Olimpico, diciamo che c'è una sorta di zona franca in cui si può fare di tutto quando ci sono le partite, i derby soprattutto, e lo so perché passano sotto casa mia. Ci sono dei terreni di scontro autorizzati, sembra quasi. Assolutamente. E come rovescio della medaglia di tutto questo c'è poi spesso da parte dei tifosi, dei tifosi per bene che vogliono magari andare in trasferta a seguire la propria squadra, tutta una serie di limitazioni dello stato di diritto e della libertà individuale clamorose, nel senso che noi ormai ci siamo abituati per motivi di ordine pubblico all'idea che un tifoso in un settore ospiti, anche se magari sta con un bambino, non è armato e non ha nessun intento belligerante, sia costretto a rimanere magari due ore fino alla fine della partita perché non può uscire, perché letteralmente non può uscire, è recluso all'interno di un settore per motivi di ordine pubblico. Ecco, a risposta delle nostre perplessità, l'ultima ora è stato aperto un fascicolo sul derby. Fascicolo s'apre e poi si chiude. Esatto. E allo stesso modo quello che denunciano i tifosi della Nocerina è la limitazione della libertà individuale di uno che nasce a Nocera Inferiore, che vuole andare a vedere una partita a 15 km di distanza, di poterci andare. Però insomma la decisione era stata presa da parte del prefetto ed è stata la decisione che poi ha scatenato questa protesta, questo ricatto. Però mi spieghi nello specifico, secondo te, dei tifosi entrano negli spogliatoi e minacciano i giocatori. I giocatori, invece di andare al primo poliziotto a disposizione e denunciarli, mettono in atto questa pantomima di buttarsi per terra, sapendo che comunque come potevano pensare di farla franca, che nessuno se ne accorgesse? No, ma l'hanno fatto assolutamente per fare un atto eclatante, insomma la ricostruzione. Ah, quindi erano tutti d'accordo? Assolutamente, la ricostruzione è abbastanza chiara, nel senso che nessuno poi diciamo si è dissociato da questa ipotesi, c'è anche chi ha festeggiato questo tipo di verdetto. Sì, tutti in piazza, solo il sindaco ha detto no, una cosa indegna. È stato dato il divieto ai tifosi della Nocerina di andare a vedere la partita a Salerno, sappiamo che le distanze sono distanze minime, di fronte a questo divieto i tifosi della Nocerina, una parte dei tifosi della Nocerina, sicuramente gli ultra, si sono sentiti discriminati e hanno ieri mattina, prima della partenza del pullman da Mercato San Severino a 15 km da Salerno, raggiunto e pare anche minacciato alcuni giocatori della Salernitana. Qui ovviamente c'è la magistratura, ci sta lavorando, noi non abbiamo certezza, ma insomma sono state fatte delle pressioni alla squadra affinché andasse a compiere un gesto eclatante e quindi non si presentasse allo stadio. La squadra arriva allo stadio, non fa il riscaldamento, rimane chiusa nello spogliatoio, probabilmente discute in quei minuti su che cosa che fare. Facciamo, che non facciamo? Che facciamo? Non facciamo, la partita comincia con 45 minuti di ritardo, viene fatta cominciare per motivi di ordine pubblico, proprio perché ovviamente c'erano 9.000 persone all'interno dello stadio, c'era un potenziale di rischio, quindi la partita comincia, ma la Nocerina decide di farla finire con un cavillo regolamentare, perché in meno di 7 giocatori la partita è dichiarata tecnicamente sospesa e verrà dato il 3-0 a favore della Nocerina. È stato divertente, io che non ci capisco nulla, era proprio veramente come lo spot di Sky, sembravano attori, si buttano per terra, cioè sì, passeranno alla storia per la loro capacità di recitare. Fermo un attimo, due ascoltatori, Marco. Sì, buongiorno. Sì. Si esprima? Pronto? Sì, la sento, l'ascolto. Ah, buongiorno. Niente, il mio pensiero è molto semplice, quello di dire basta con queste buffonate, nel senso che il malessere sociale non deve essere soltanto espresso a livello di curve o meno. Chi fa sport deve fare sport, la società di calcio non deve ricattare come questa squadra di potere. Sì, anche perché comunque... La sento molto male, Marco, però riassumo, ho capito cosa vuol dire, ma è quello che dico anch'io. Com'è si trova una sorta di così potente strumento di pubblica esecrazione, di complicità, anzi di reale condivisione di un ideale da parte di calciatori, di società probabilmente, di parte di istituzioni contro un'ingiustizia sociale, e non si trova su altri campi, si trova sul calcio? Claudio, da Nocera Inferiore, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Sì, come me lo spieghi lei, che è del posto, mi spieghi che è accaduto. Sì, sì, sì, io insomma parto da una base che dico, io sono tifoso e non ultra, quindi già questo insomma fa capire il tipo di mentalità. Io sono un professionista, sono un farmaceutico, però dico una cosa, da appunto persona del posto e nocerino mi sono sentito discriminato con insomma non potendo andare a vedere una partita a 15 chilometri di distanza in una città che insomma ci vado a lavorare, insomma ho avuto fidanzate, ci vado a... Quindi lei è d'accordo in generale sulla sollevazione popolare coatta di Nocera Inferiore? Guardi, io dico che più che sollevazione coatta ci sia stato un gesto sicuramente forte, ma che non insomma sì, cioè che non sia stato caratterizzato da minacce come insomma si sta dicendo, come tutti i giornali insomma stanno facendo insomma un po' di questa diciamo mercificazione, stanno ponendo in essere sempre questo tipo di problema, insomma dicendo che c'è stato una minaccia ai giocatori, alle famiglie, ma parliamo di persone che hanno 20 anni, ragazzini che giocano per un club che insomma hanno voglia di sport. Quindi la vera notizia come ci dice Pardo. Io credo che non ci sia insomma nessuna no, ma questo però rafforza la mia tesi iniziale, anche tanto più se non c'è stata minaccia, c'è stata una forma di coordinata, regolare sollevazione popolare con dentro anche parte delle istituzioni di fronte a quella che viene considerata un'ingiustizia. Ma ormai queste ingiustizie, tante ingiustizie, discrepanze, inadempienze, ne vedo ogni giorno, ma soltanto sul calcio gli episodi eclatanti riescono a coinvolgere, a stringere questi patti così stretti fra istituzioni e fra popolazione, come avviene solo nel mondo nel calcio. Questo è il casino dei tifosi della Nocerina. L'episodio che abbiamo toccato di un'intera cittadina in rivolta contro un'ingiustizia, anche in maniera molto molto veemente, mi ricordo un episodio di un racconto di Lope de Vega, che era un commediografo spagnolo della Controriforma, che ricorda i tempi dell'università. Allora, Fuentevecuna è un piccolo paese dove avviene un fatto di sangue, perché il governatore voleva esigere lo ius prime noctis in una ragazza del posto, lo prendono, gli tagliano la testa e la impiccano. Quando i re cattolici mandano un giudice a trovare il colpevole, tutto il paese compatto dice: no, chi è stato a fare questo delitto? È stata Fuentevecuna, è stato tutto il paese, tanto che il giudice alla fine, non potendo accusare nessuno, assolve tutti. Ecco, la stessa cosa probabilmente accadrà anche per il fatto della Nocerina. Per Luigi Pardo. Eccoci, ma guarda, tornando al discorso di prima, io credo che la chiave, la sintesi nel salutarti sia quella che diceva anche quell'ascoltatore, cioè di fronte ad altre dinamiche sociali, di fronte a problemi politici ben più gravi, è così difficile certe volte far scattare anche un certo livello di conflittualità, e il calcio invece improvvisamente accende tutto, e questa mi sembra la chiave, no? Anche perché si trova il consenso su punti di vista basici, semplici. Assolutamente, assolutamente, e difficilmente poi riesce a scatenare un senso di solidarietà che è quello che dovrebbe esserci fra tutti i tifosi per bene, fra tutti i tifosi che vogliono andare allo stadio con dei diritti civili normali e che oggi non si mettono a fare l'analisi per capire se la Nocerina verrà punita più o meno di... Cosa rischia secondo te, poi per legarla alla favola che ho raccontato? Rischia penalizzazioni con i dirigenti deferiti, con i giocatori deferiti, poi se vuoi c'è anche una considerazione umana, perché se poi questi giocatori sono stati realmente minacciati, insomma, per carità. Comunque avrà nell'animo dei tifosi la palma dell'eroismo, della rivolta reale e concreta. Credo che se la siano conquistata. Sì. Grazie Pardo. Grazie. Allora Mario, velocemente. Sì, brevemente, immagino che la mia opinione sia molto in controtendenza. Però ritengo che tutto sommato non sia sbagliato che il calcio sia una specie di zona franca, anche per le frange più violente di alcuni settori giovanili, che è meglio che forse si scarichino lì piuttosto che in altre forme. Meglio che si scannano intorno agli stadi che vengono a farlo sotto casa. Mi sembra chiaro. Corrado, basta, fine. Corrado. Sì, c'è una riflessione tempo. Telegrafica è una provocazione, di che non c'è nulla da stupirsi. Il calcio è un fenomeno ormai privo, fuori da ogni controllo, completamente fuori controllo, quindi non sono stupito. Basta dire, non so, che i ragazzini di 15-16 anni sono pagati, mentre in tutti gli altri sport le società faticano a trovare i campi per poter giocare. Nel calcio tutto è permesso, tutto, completamente tutto. Quindi scrivono degli ascoltatori, la risposta è semplice, c'è un ascoltatore via SMS. La mobilitazione nell'ambito del calcio evidentemente funziona, gli altri ambiti no. Un altro dice: ascoltate le metafore calcistiche nel lessico di quasi tutti i politici cialtroni, capirete che il calcio è una zona franca. Tommaso. Sì, io volevo soltanto dire che non condivido la forma di protesta come è stata fatta, però anche le istituzioni, il questore, la prefettura, non so chi sia, non poteva, cioè doveva far disputare la partita a porte chiuse, piuttosto che consentire a una tifoseria di entrare nello stadio e all'altro lasciarla fuori. Tutto qua. Lei parla in termini calcistici, è giusto questo, lo potrebbe ripetere oggi alla trasmissione di Pardo alle 14 su Radio 24, ma io vorrei capire perché questo non avviene in altri campi. Non ho mai visto la gente così unita di fronte a una palese ingiustizia sociale che colpisce tante altre persone. Benedetto. Salve, quello che volevo dire è questo qua, questa è la foto dell'Italia. Perché la foto dell'Italia? Perché secondo me il più forte deve sottomettere sempre il più debole. Il problema secondo me parte da lontano, cioè è il sentimento che provano tutti gli italiani come quello dei giocatori, cioè quello che si sentono impotenti, sapendo che gli si può ritorcere contro qualche cosa, e piuttosto che affrontare il problema lo evitano. Quindi si sono sottomessi a quella che era una forte volontà, anche ammesso che non ci siano state minacce, però dice: ma perché andiamo a metterci contro in fondo al furor di popolo che è quello che ci sostiene? Perché questa è una bella ipotesi. Enzo, buongiorno. Buongiorno, volevo dare la mia testimonianza perché ho fatto una società come presidente, è una società molto importante per quanto riguarda i violenti che ci sono nelle società. Ma Lega Pro oppure più grossa? Lega Pro. Vabbè, allora Lega Pro. Stesso livello, diciamo, di categoria delle due squadre implicate. Sì. Ma voglio dire, esattamente sono 4, 5, 6 che comandano tutto il resto, è un branco, poi il resto di sé. Basta imporsi a questi che le cose possono andare diversamente. Io mi sono rifiutato di fargli entrare gli spogliatori, ho avuto delle minacce, li ho affrontati personalmente. Ho parlato con il questore, col prefetto della città di cui ero presidente, abbiamo trovato degli accordi, c'erano alcuni che non volevano entrare allo stadio perché non volevano essere messi insieme a quelli più violenti, li ho fatti mettere da però un'altra Enzo, parte. Scusi Enzo, lei mi conferma l'ipotesi iniziale di questa trasmissione, che comunque non è stato un colpo di testa della punta dei facinorosi su cui è facile tutti infierire. E come oggi tutti parliamo di Paolini arrestato per le baby squillo, ma nessuno riesce a tirar fuori i nomi di quelli grossi che c'erano veramente dentro. Ecco, allo stesso caso qui invece erano tutti d'accordo, era una maniera insomma di andare contro una legge, contro una presa di posizione, una decisione del prefetto. Quindi diciamo la legge si aggira se ci si fa forti di qualcosa. Ma dicevo, guardi, io ripeto, non ho avuto problemi, li ho affrontati, abbiamo discusso, abbiamo trovato degli accordi, sono arrivati allo stadio, io li frequentavo, andavo a salutarli quando entravano, non ho mai avuto problemi, però ripeto, sono 5-6 massimo, non si può generalizzare su tutto. Sì, però come dice lei, c'era modo comunque di risolverla in maniera diversa, si è voluto creare il fatto, vedremo le conseguenze. A domani.